as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, anche oggi siamo qui ad Il Pane e le Rose. Siamo in un periodo particolare, periodo di sciopero, di manifestazioni. Tra le manifestazioni della Palestina e gli scioperi organizzati dalla CGIL, siamo sempre in piazza. Ne abbiamo fatte diverse ormai di puntate e siamo entrati in questo mese di scioperi organizzati dalla CGIL. Il 17 c'è stato lo sciopero del pubblico impiego e dei trasporti. Noi siamo stati a Bologna, eravamo in piazza, siamo andati in solidarietà al pubblico impiego come metalmeccanici. Eravamo lì e ne abbiamo approfittato per fare un po' di interviste, per parlare con i delegati. Questa sarà una puntata in cui fondamentalmente faremo parlare loro. Parlerò poco io, non dirò niente, tanto non c'è bisogno. Abbiamo intervistato diversi delegati, un funzionario, abbiamo intervistato un Salvatore, un delegato del Rizzoli. Abbiamo intervistato Mario Caragnani perché ci ha parlato un po' di quello che sta accadendo nell'automotive, nei Timarelli, Breda Minerini Bus. Abbiamo intervistato un delegato dell'UPS. Abbiamo intervistato il classico dipendente statale, Ciro, napoletano, che vive a Bologna, lavora a Bologna nel pubblico impiego. Abbiamo poi intervistato un delegato dell'Amazon, ero contentissimo di vedere l'UPS, me l'aspettavo. Amazon finalmente si sono ben sindacalizzati fino ad organizzare tutto un gruppo di lavoratori che sono venuti in piazza. Ecco, io dico solo una cosa, la storia siamo noi e dobbiamo fare la storia questa volta. Speriamo che inizierà una forte battaglia, una stagione di lotte che possano far cascare questo governo. È quello che io che spero. Sentiamoci questa canzone, poi subito le interviste ai delegati e ci vediamo alla fine per un salutino veloce veloce. Ciao, a dopo. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. La gente che fa la storia quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare, ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. Siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. siamo noi questo piatto di grano. Allora, siamo qui in Piazza Nettuno, oggi 17 novembre, sciopero nazionale del pubblico impiego. Abbiamo davanti a noi un compagno, Salvatore, dell'ospedale Rizzoli. Ricordiamo che Rizzoli è stato un ospedale che ultimamente si è parlato molto, visto che avete scioperato, sono venuto, ci siamo già sentiti. Allora, oggi sciopero nazionale, si sciopera anche per la sanità. Voi siete in piazza, ho visto che c'è anche il Sant'Orso e anche altri ospedali, c'è anche il Maggiore, ci sono vari dipendenti pubblici di Bologna. Allora, tu Salvatore, cosa ci puoi dire di questo sciopero? Noi questo sciopero lo stiamo portando avanti da tanto tempo, abbiamo iniziato come Rizzoli ad aprile con uno sciopero aziendale, uno storico sciopero aziendale in cui abbiamo portato un sacco di lavoratori a scendere, a non lavorare quel giorno per ragioni che noi tuttora portiamo avanti, ragioni come una sanità pubblica, salari dignitosi. E per dire no a quello che il governo sta portando avanti sulla sanità privata, cioè quello che vuole smaltire, è notizia di questi giorni, le liste d'attesa, dando un sacco di milioni di euro alle aziende private, alle aziende sanitarie private per smaltire le liste d'attesa. Noi crediamo che la sanità sia un bene comune, sia un modo e un metodo per rendere più uguali tutti gli italiani di fronte alle malattie che avvengono, e quindi noi crediamo che la sanità debba essere pubblica per essere garantita a tutti, quindi non ci deve essere una sanità di serie A e una sanità di serie B. Poi per quanto riguarda il percorso sullo sciopero, noi l'abbiamo portato avanti appunto da aprile, e nella CGIL abbiamo spinto tanto perché si facesse uno sciopero sulla sanità e sui salari, e noi rivendichiamo delle rivendicazioni che siano appetibili per tutti, quindi non siamo per uno sciopero generico, generale, ma siamo appunto per avere delle rivendicazioni giuste, come un salario a 300 euro, come dare molti soldi in più alla sanità pubblica, superando quello che è il 7% del rapporto debito-PIL, perché un'altra ideologia da smontare è quella che questo governo ha dato soldi alla sanità, ma non è affatto vero, perché si è aumentato a livello nominale i soldi nella sanità, ma a livello con rapporto deficit-PIL l'ha abbassati sotto il livello OCSE, quindi siamo in un livello di non ritorno, mancano infermieri, mancano OSS e soprattutto manca una vera organizzazione dal basso negli ospedali, perché non si può continuare con una aziendalizzazione negli ospedali pubblici come è successo gli anni 90 finora, perché quello che si è visto è il risultato che anche cambiando sistema, diventando aziende, la sanità non è diventata efficiente, anzi crea buchi dovunque, quindi solo dal basso, solo organizzando i lavoratori che lavorano dentro la sanità si può dare una vera risposta a quelli che sono i bisogni sociali della popolazione. Questo sciopero contro il governo, ma anche contro i padroni in questo caso, visto che stiamo scioperando, quando si sciopera si sciopera. Voi siete direttamente con il governo, il vostro padrone è il governo, ma noi sciopereremo il 24, ci sono varie iniziative di sciopero in tutta Italia fino al 1° dicembre. Cosa pensi tu? Bisogna andare avanti? Pensi che riuscirà la CGIL a creare una stagione di lotte? Come dicevo prima, senza una vera rivendicazione, senza delle veri obiettivi, non si può andare avanti. Quello che io spiego ai miei colleghi, quando noi gli diciamo di scendere in piazza per scioperare, loro mi dicono sempre, ma l'obiettivo quando lo raggiungiamo? Ecco, l'obiettivo si raggiunge quando tu lo poni di raggiungere l'obiettivo, e finché non raggiungeremo quell'obiettivo noi dovremmo andare avanti, perché se no non daremo, come dire, agli altri che sono scesi con noi un motivo in più per scioperare ancora e ancora e ancora. Dunque Rizzoli è pronto ad andare avanti? Il Rizzoli è pronto perché grazie a quel sciopero di quel giorno abbiamo ottenuto dei pezzettini in quell'azienda, quindi è un modo per far vedere agli operai che solo lottando si può arrivare a qualcosa, e ancora c'è molto da fare. Grazie Salvatore, alla lotta! Alla lotta dura! Allora, qua abbiamo Mario Caragnani, siamo qui sempre qui allo sciopero del pubblico impiego. Abbiamo incontrato il nostro compagno della FIOM, Mario Caragnani, responsabile dell'automotive. La FIOM oggi è qui in sostegno ai lavoratori del pubblico impiego, sono anch'io, sono della FIOM chiaramente. Siamo qui, questa è una cosa importante, no? Che la FIOM c'è qui presente, perché a nome dei meccanici interessa la questione del pubblico impiego. Assolutamente sì, lo sciopero proclamato dalla CGIL e della UIL è contro una politica che vuole frenare la dimensione collettiva della lotta delle lavoratrici e lavoratori. Le lavoratrici e lavoratori devono stare uniti insieme contro queste politiche del governo, ma anche contro il sistema delle imprese. Noi come metalmeccanici ci siamo, chiaramente il nostro sciopero sarà venerdì prossimo, ma le delegate e i delegati delle aziende metalmeccaniche hanno voluto essere presenti perché la lotta dei lavoratori è la lotta che unisce tutto il mondo del lavoro e deve far cambiare queste politiche assurde e di destra del governo. Allora, io è chiaro che colgo l'occasione per farti una domanda. Tu sei responsabile dell'automotive, Bologna è in fibrillazione, preoccupatissima per la questione Magneti Marelli. Questo governo comunque ha delle sue responsabilità, visto che non sta facendo nulla per la transizione ecologica e per un piano industriale. Scendiamo in piazza anche per questo, no? Ci sono anche... Bologna ha due vertenze simbolo sull'automotive, che sono Marelli e Industria Italiana Autobus. Sono due facce della stessa medaglia. La mancanza di politiche industriali da parte del governo sta causando delle grosse difficoltà a un'azienda sana che potrebbe produrre centinaia di autobus dentro la transizione ecologica. La mancanza di politiche industriali sta causando la possibilità a una multinazionale come KKR, che mentre sta acquistando le reti TIM e quindi un asset strategico del nostro paese, decide di chiudere uno stabilimento perché non è profittevole e senza fare investimenti per stare dentro la transizione. Le responsabilità del governo, ma anche del sistema delle imprese, sono palesi in queste due vertenze, e quindi noi venerdì prossimo saremo in piazza con alla testa del corteo sia la vertenza della Marelli che la vertenza di Industria Italiana Autobus insieme alle compagne della Perla, perché queste sono le tre vertenze simbolo del nostro territorio. Grazie Mario, ci vediamo il 24. Ciao Gian Placido, grazie a tutti. Allora, qua siamo sempre qui in piazza. Ho visto dei ragazzi dell'UPS, abbiamo visto quelli della sanità, abbiamo visto quelli del comune, abbiamo visto diversi lavoratori. Siete anche voi oggi in shopping, siete dei trasporti, no? Certo, sì, siamo trasporti merci logistica e ovviamente... Sono delegato sindacale? Sono delegato sindacale, filiale di Bologna, e abbiamo aderito a questo sciopero perché speriamo in una vita migliore, perché... Con questa inflazione, con questa politica del governo, che praticamente secondo noi guardano solo le loro tasche e non pensano alla gente che va a lavorare, loro non pensano che i loro stipendi vengono dal lavoro di questa gente che è qui in questa piazza. E in più, secondo noi, non è giusto quello che hanno fatto, che hanno impedito una manifestazione che tutti lo volevano, e hanno impedito con questa legge che hanno limitato a 4 ore. A 4 ore nessuno non va via dal posto di lavoro per andare in piazza e per tornare, perché non ce la fa in tempo e ovviamente prenderà le lettere di richiamo. Ma speriamo in una vita migliore, perché siamo qui per lavorare. Voi avete scioperato 8 però. Sì, ma noi siamo dei lavoratori, non siamo dei ladri, non siamo malviventi. Ci svegliamo la mattina per portare un po' di pane alle nostre famiglie, e in più è il nostro contributo anche per l'economia italiana, perché se non si lavora automaticamente l'economia, lo sai, certo. Che certo, però noi veniamo qui con la speranza, perché la speranza muore l'ultima, questo così si dice, e speriamo, ma non lo so fino a quando, che le cose miglioreranno anche per noi, non solo per i governanti, perché loro devono guardare in giù, perché qui è la gente che non ce la fa più, perché la gente si ribella quando sente delle mancanze, quando il stipendio non arriva con il stipendio a fine mese, quando quello che deve mettere sul tavolo per la famiglia, per i bambini, non basta. Allora lui valuta, io lavoro dalla mattina alla sera e quello che il governo mi dà, il mio riconoscimento, non mi basta. Perché? Perché la vita è cara, ma la vita non è che io lo faccio diventare cara, sono loro. Allora noi chiediamo che loro guardano in giù, non solo nelle loro tasche, guardano a questa gente che vuole lavorare, ma non siamo qui per creare dei danni. Ovviamente i danni si creano perché manchiamo dal lavoro, ma siamo qui per chiedere una vita migliore. Non chiediamo il sole, ma chiediamo quello che è giusto per il nostro lavoro. Basta che loro riconoscono quello che facciamo noi, ma in modo giusto. giusto, non è che io lavoro 10 ore e mi pagano come pagassero uno che lavora 4 ore, questo chiediamo noi. Certo, chiede al governo che valuti, che valuta il lavoro e che il lavoratore sarà retribuito giustamente per quello che fa, non chiediamo per quello che non facciamo, per quello che fa chiediamo un riconoscimento giusto, economico ovviamente. Grazie. E andiamo avanti con questa speranza. Ok, ti ringrazio. L'UPS è qui in piazza e lotta insieme a tutti i lavoratori del pubblico impiego. Assolutamente sì. Assolutamente sì. In bocca al lupo per tutti. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, siamo sempre qui in piazza. Abbiamo un compagno, un comunista, vero, il nostro compagno, Ciro. Grazie. Che tu sei un dipendente statale, chiaramente sì, stai scioperando. Assolutamente sì, io sono un dipendente del Ministero delle Imprese e Made in Italy, anche se sviluppo economico, e sono chiaramente in piazza come tutto, con tutto il pubblico impiego, perché ovviamente noi partiamo dal presupposto, questo ne faccio anche una questione politica di convincimento politico, che bisogna rivalutare il pubblico, e questa manovra tende praticamente a togliere il servizio pubblico, parliamo in particolar modo del welfare, sicurezza dei lavoratori, stipendi, e con un governo che nello stesso tempo, come fa anche quello precedente indubbiamente, destina chiaramente il 2% del PIL alle spese militari, parliamo praticamente di 80 milioni al giorno, quando basterebbero solo la metà di queste spese per risanare quella che è la sanità, la scuola pubblica, e chiaramente dare dignità a tutti i dipendenti pubblici, compresa tutti i controlli che dovrebbero essere fatti sulla sicurezza sul lavoro. Norme che ci sono, tranne quella dell'omicidio sul lavoro che noi abbiamo chiesto insieme ad altre forze costantemente, ma già le norme che ci sono permetterebbero dei controlli e quindi le sanzioni alle ditte, solo che non vengono fatte per una volontà politica, perché mancano i dipendenti, mancano i fondi, per cui chiaramente poi ci troviamo di fronte ai casi che viviamo tutti i giorni, l'ultimo di quella ragazza schiacciata, con le vertebre schiacciate, perché chiaramente in quel momento non funzionava il blocco del macchinario. Adesso cercheranno di dare la colpa al collega che ha fatto partire il macchinario, ma se ci fosse stato il blocco di sicurezza come era per Luana Prato, sicuramente non sarebbe successo. Quindi è questo in sostanza, anzi noi siamo contenti che la CGIL e la UIL finalmente si muovono con uno sciopero non fatto di sabato, parliamoci chiaramente, e noi auspichiamo che tutte le forze sindacali, sia confederali che di base, si riuniscono, perché in questo momento di fronte a un governo chiaramente fascista, è inutile che ci giriamo intorno, è necessario un blocco sociale che permette chiaramente una lotta di tutti verso questa situazione. Grazie. Ma secondo te mancherà, cioè basterà questo sciopero o serve una stagione di lotte? No, serve una stagione di lotte, perché lo sciopero fatto unicamente, poi dopo ovviamente non seguito da una stagione di lotte, porta poi anche i lavoratori successivamente a non fare più sciopero, perché se un lavoratore medio nel senso buono del termine chiaramente, ma perché noi lo facciamo anche per passione politica, ma un lavoratore deve vedere che il suo sforzo anche economico quel giorno, perché lo sforzo economico visti gli stipendi, può avere una soluzione, la lotta deve essere continuativa. Noi, per questo che noi auspichiamo un blocco di forze che faccia una lotta continuativa, cioè anche questa cosa della precettazione del pubblico dei trasporti va combattuta. A questo punto veramente si apre una stagione che per Landini e anche per la UIL Bombardieri, di fronte a questo attacco a un diritto sacrosanto della Costituzione, bisogna replicare, non solo con il ricorso che chiaramente è legittimo, ma anche ribadendo che i lavoratori non possono essere precettati in una situazione del genere, non si può giustificare la precettazione con il disagio. Lo sciopero è chiaro che è il disagio, ma anche la gente deve capire che il disagio è provocato dal fatto che vogliamo stare tutti meglio. Ok, ti ringrazio Ciro. Grazie a te. Alla lotta. Grazie. Ciao. Sempre. Allora, siamo sempre qui in piazza, abbiamo un delegato di Amazon che oggi è il numero uno cioè tutti quanti utilizziamo, però numero zero, numero zero chiaramente numero uno ce ne stanno tanti. Vabbè, però siete qua in piazza, è cosa importante che finalmente Amazon è stata sindacalizzata, perché c'è il sindacato, perché non era scontato anni fa che la mia azienda, posso permettermi l'onore di averla sindacalizzata io, ecco. CGL, sono stato l'ultimo ad entrare nel sindacato, siamo l'azienda che ha più iscritti. Buono. E oggi siamo qui a manifestare i nostri diritti. Allora, trasporti, voi trasportate le merci? Esatto, noi trasportiamo tutto, ormai siamo il futuro, tutto quello che è collegato a internet ormai è il futuro. E siete diversi qua, vedo che siete abbastanza come numero. Abbastanza. Questo è un grande risultato per la CGL, che siete qui in piazza. Perché siete qui in piazza? Siamo qui per i problemi inerenti ai trasporti, i nostri diritti inerenti ai trasporti, il problema principale che abbiamo in Amazon sono i carichi di lavoro, usciamo con troppe consegne che non riusciamo a portare a termine, comunque c'è una pressione da parte dell'azienda, la stessa azienda è ad avere la pressione da Amazon. E voi siete una cooperativa che lavorate per Amazon, chiaramente. Allora, io lavoro per un'azienda per cui ha l'appalto con Amazon. Certo, come tutti ormai. Tutte le aziende Amazon non ha i suoi corrieri diretti, Amazon non assume, Amazon appalta a delle aziende che appunto prendono l'appalto. Ma cosa chiedete a questo governo? Perché oggi lo sciopero contro il governo, giustamente anche sciopero contro i padroni che stanno con il governo, chiaramente. Cosa chiedete voi a questo governo? Più salario, più diritti? Il salario come siete messi? Ma guarda, quello che chiediamo noi principalmente di Amazon, come ho già detto, quello che interessa oggi sono i carichi di lavoro. Sì. Chiaramente è anche collegato al salario, perché uno più lavora più guadagna. Con uno stipendio base di un autista non si può pretendere che un lavoratore possa effettuare 250 consegne al giorno per Amazon. Certo. Noi non siamo degli egoisti, noi non chiediamo soltanto quello che ci spetta, in base a quello che percepiamo chiediamo di lavorare per quello che, per cui siamo pagati. Ok, dunque siete pagati poco per quanto lavorate, questa è la vera, dei trasporti ormai è ovunque, sì, così, sì. Anche l'UPS. Cosa. Noi considera che siamo sul furgone 10 ore al giorno, compresa la pausa di mezz'ora, ma quando uno parte da casa, va lì a prendere il furgone, entra in Amazon, lascia il furgone, arriva a casa, e comunque sono 10 ore al giorno di guida per uno stipendio base, e in più ci tocca fare 200 consegne al giorno, sopportare lo stress del traffico, la gente che si suona, non c'è parcheggio, le multe ci vengono addebitate a noi. Anche le multe? Anche le multe ci vengono addebitate a noi, perché abbiamo lavorato male. Abbiamo sempre delle pressioni psicologiche che delle volte superano anche lo stress collegato al lavoro in sé per sé. Questo è il motivo per cui oggi siamo qua. Ok, ti ringrazio e sono contento che siete qui alla lotta. Grazie. Un'altra volta e non ce ne siamo accorti, ci hanno illuso anche stavolta, forse dandoci per morti. Bloccheremo gli aeroporti con presidi autostradali, navi ferme dentro ai porti, picchettiamo le centrali per riavere la dignità di un lavoro e di un salario. Per quei padri di famiglia con dei figli da sfamare, disperati non sanno più che fare. Sono stufi di ascoltare uno che racconta balle, che ti sazia di parole e da pacche sulle spalle. Voglio solo dignità di un lavoro, di un salario, non per niente carità. Solo uscire dal calvario senza vento le bandiere. Fan fatica a sventolare. Devo ammettere, ho creduto in un vostro cambiamento. Illusioni di promesse senza tempo. La la la. Nelle tende difende i sindacati come i grandi capi indiani, nel rispetto dei contratti ridiscuto nuovi piani, al politico in azione sempre con le mani in pasta, col reato in prescrizione noi vogliamo dire basta. Non crediamo alle promesse, è il momento di lottare per quei padri di famiglia con dei figli da sfamare, disperati, non sanno più che fare. Ma dov'è la dignità, onorevole affarista, nel mutar la verità in TV da opinionista? Con lo sguardo sempre fiero, rassicura gli elettori, vuol salvare il mondo intero da formette di imbroglioni. Ci han traditi un'altra volta e ora ce ne siamo accorti. Devo ammettere, ho creduto in un vostro cambiamento, illusioni di promesse senza tempo. Abbiamo ascoltato Sciopero dei Modena City Ramblers, bellissimo pezzo, devo dire, e ci sta, visto quello che sta accadendo in questi giorni in Italia, visto la faccia di Salvini, ne abbiamo proprio dedicata a lui questa canzone. Ora il 24 ci sarà sciopero generale di tutta l'industria, di tutte le altre categorie del centro Italia. Io invito tutti quanti a scioperare, a scendere in piazza, ci sarà Piazza 20 Settembre, il concentramento, e poi ci sarà un corteo, sarà diverso dallo sciopero del 17, scendono tutti gli altri lavoratori, siamo abbastanza arrabbiati, si è visto quello che è successo a Reggio Emilia, la Fiom è scesa in piazza perché loro hanno fatto sciopero del 17, e la differenza c'è stata. Ora mi raccomando, avete ascoltato i delegati, abbiamo sentito la loro semplicità, le loro parole, abbiamo ascoltato proprio la classe operaia, abbiamo ascoltato che ci hanno detto la bella verità, che è quello che serve, salario e diritti, questo noi abbiamo bisogno e chiediamo a questo governo, che vediamo questo governo ci sta togliendo tutto. Ripeto, il 24 sciopero generale, mi raccomando, tutti in piazza, anche voi studenti, chi ci ascolta, bisogna essere tanti, tutte le piazze devono essere piene, e per far sì che convinciamo le varie confederazioni sindacali a continuare questa lotta. Lo dobbiamo fare per questo, scendere tanti in piazza e dire si va avanti, sciopero generale continuato, sempre di più, prendiamo esempio dei nostri colleghi metalmeccanici americani, prendiamo esempio dei francesi, l'ho detto più volte, si va avanti, dobbiamo provarci fino in fondo. A presto, prossima puntata, ciao a tutti. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.